Dossier all'Italia. Avrò un incontro proprio entro oggi con chi ha portato avanti fino adesso la pratica e tra l'altro io stamattina mi sono inventato uno slogan che mi piace molto e ve lo dico. Io amo l'Italia, io volo all'Italia. C'è anche un'altra possibilità che è quella di ritornare alla primitiva soluzione che io credevo si discutesse, cioè alla formazione di un grande gruppo internazionale con parità di dignità tra le tre compagnie. Se si andasse in quella direzione potrebbe anche, no, questo la compagnia di bandiera resta compagnia di bandiera, si danno un'alleanza che è un'alleanza importante, ma però i turisti dei paesi ce li portiamo in Italia.